Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, buonasera a tutti, ben ritrovati, questa è Blu Radio Veneto, io sono Flavio Bilato, assieme a me Maurizio Calzavara in questa trasmissione di martedì 12 aprile del 2011, anche in questa serata live, vero Maurizio? Assolutamente live, buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Bene, allora in questa serata abbiamo un ospite emergente, già conosciuto, si chiama Giovanni Marton ed è venuto a presentarci quello che è il suo pop elettronico, che però ci farà conoscere anche in versione acustica per solo chitarra. Quindi diamo il benvenuto anche a Giovanni. Buonasera Giovanni. Buonasera a voi, grazie di avermi invitato. Grazie a te di essere venuto praticamente. Non hai fatto andare da strada, però è positivo che tu sia venuto per presentare la tua musica. Questo è certo. Importante, è fondamentale. Allora partiamo dall'inizio. Giovanni Marton, classe 1989, quindi se vogliamo proprio giovane, però già con molte esperienze da raccontarci nell'ambito della musica e di questo pop elettronico a cui sei stato sempre affezionato, sei nato con questo praticamente, Giovanni. Sì, Allora il progetto nasce dalla giovane età, possiamo dire, sì. Perché è sempre stato un po' nel mio pensiero l'idea di cominciare a buttare le basi giuste fin da piccolo. E non ho mai pensato di fare un percorso del tipo arrivo a una certa età matura e poi provo a buttarmi sulle major, ma dico piano piano da piccolo comincio fin dalle indipendenti più piccole in modo da costruirmi le basi adatte per creare un percorso con delle fondamenta. E per quel che riguarda lo stile che tu appunto definivi pop elettronico, la mia passione per le sonorità elettroniche nasce principalmente perché sono attaccato alla concretezza del suono. Per cui non è una passione necessariamente legata all'elettronica in quanto tale, ma in quanto ad utilizzare suoni che abbiano quel retrogusto di verità, di retro. Infatti i sintetizzatori che uso sono talvolta anche con delle sonorità vintage, e per questo infatti anche al mio album a cui sto lavorando adesso, se potrebbe sembrare più acustico, ma in realtà la linea è proprio quella della concretezza. Adesso magari invece di aprire un Moog scelgo di utilizzare un bel organo Hammond, ma certo, la strada è sempre quella. E questo ti fa molto onore, perché insomma, grazie. Utilizzare un Hammond vabbè, non è da poco. Sonorità vintage, è interessante questo tuo discorso, cioè un ritorno al passato, ma quel passato che conta praticamente musicalmente parlando. Sì, perché non mi piace la freddezza di tanta musica che esce oggi. Escono dei dischi che sembrano di plastica. Senti delle chitarre, delle batterie che non si capisce se sono vere, se sono fisse. Sono registrate così bene che non capisce se sono vere. Mi piace registrare male apposta delle volte, sporcare proprio volutamente. Proprio per dire questo è fatto in casa, questo l'ho fatto io, no? Senza troppi stravolgimenti. La cosa difficile è creare un suono fatto in casa in un bello studio, perché certo. Comunque tu hai appena accennato che stai lavorando a un nuovo CD, a un nuovo album, sì. Però quello che presentiamo in questa serata, e non solo, è il tuo nuovo EP che si intitola Non sogno l'estate. Sì, questo EP è uscito il 29 gennaio di quest'anno. Coincidenza assolutamente casuale che il 29 gennaio di 2 anni prima pubblicai il mio primo singolo. E è un disco che è uscito su Discipline, che è l'etichetta di Garbo. Sì, vogliamo ricordare, Garbo lo conosco, sì, che lo conoscono tutti, però ecco, a proposito di atmosfera retro e di pop elettronico, Garbo a quel tempo ne sapeva qualcosa, un po' veniva fuori da un pezzo di David Bowie, si può dire, no? Sì, esattamente. Era il David Bowie italiano. Ecco, veniva considerato questo, non si sa se più per la musica o più per la sua pettinatura, per il suo modo di essere televisivamente parlando, sì. E poi il rapporto con questa etichetta è nato principalmente dalla collaborazione con Luca Urbani, sì. Che era il leader dei Soegba. Altro gruppo fondamentale del pop, della New Wave italiana, possiamo chiamarla così. Certo, la New Wave italiana. E appunto assieme a lui e agli altri ragazzi con cui collabora abbiamo dapprima lavorato a queste registrazioni al Frequenze Studio e poi man mano abbiamo ripreso in mano il progetto con il mio produttore Marco Bertone a BE Records e poi alla fine abbiamo pubblicato questo EP appunto su Discipline. Bene, allora direi di terminare questa prima fase della conversazione proprio per dare spazio a un primo pezzo da questo EP che si intitola Non sogno l'estate e abbiamo scelto la traccia numero 2 che equivale a La malattia. Certo. E poi torniamo a commentarla insieme. A dopo. Blu Radio Sera. Thank you. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E abbiamo ascoltato la prima canzone per capire un po' di più di quella che è la musica che stiamo presentando questa sera. Abbiamo un ospite in studio, si chiama Giovanni Marton, è venuto con la sua chitarra a presentarci l'EP Non sogno l'estate. E poi la chitarra ce la farà anche. Certo, sentire. Poi la usiamo. È pronta. Ancora benvenuto Giovanni. Grazie. Questo era un pezzo, mentre il pezzo andava noi parlavamo con Giovanni, delle sonorità che tu hai costruito, che hai caratterizzato, che hai formato. Sì. Parlami un poco di questo. Questo che è quello che mi piace di questo lavoro è che è rimasto uno dei pochi veri lavori artigianali che ci sono a fare la musica. Mi piace proprio l'idea di costruirla con le mani, prenderla, è come quasi un rapporto sessuale, fisico. E anche l'idea, ad esempio, di fare una chitarra elettrica, dici vabbè, la faccio, la collego a un preamplificatore, poi al computer ci metto gli effetti per simulare questa sonorità. Invece io non è così. Non è così, mi prendo un vecchio amplificatore valvolare degli anni 60, ci metto i microfoni adatti. Poi magari all'ascoltatore non cambia tanto, però è un approccio completamente diverso. Ma tu quando lo spieghi l'ascoltatore capisce con quale pathos, con quale anche difficoltà per fare un pezzo, non è mica semplice, non è mica una cosa così. Per dargli il calore, l'atmosfera, poi sono quelle piccolezze che secondo me se le ascolti da sole non le senti, e poi se ascolti ascoltando tutto e capendolo bene senti subito la differenza tra quando si notano queste piccolezze o no. Certo. Ecco, ma invece di parlare della parte tecnica relativa a tutta questa ricerca sonora, vogliamo un attimino parlare anche del testo. Sei sempre tu che scrivi le tue canzoni. E quindi questa la malattia, c'è un tuo messaggio che vuoi dare all'interno di questa canzone? Sì, questa canzone parla... è una canzone sostanzialmente che tratta di illusioni, e talvolta le illusioni sono quella trappola, quella sabbia mobile che è la provincia. Ed è una trappola inquietante, nel senso che senza rendertene conto ti trovi intrappolato in frenesie quotidiane, senza poi magari concentrarti sul peso vero che è la grandezza vera che può avere l'esistenza. Pertanto questo pezzo definisce come malattia la noia, come malattia dell'anima. E poi durante il testo della canzone c'è questa divagazione romantica. Sappiamo che i poeti romantici si spostavano in altre parti del mondo con la fantasia, in altre epoche. Ecco, io ho sognato di, in questa canzone, di durante una domenica in provincia, di prendere la macchina e di girare il Texas, per dire, ambientazioni simili. E questa divagazione serve appunto per sottolineare questo aspetto inquietante, secondo me, della quotidianità. Anche se però musicalmente non ha niente di americano questo pezzo. No. Assolutamente no. Nonostante questa divagazione letteraria, l'America è lasciata da parte. C'è molta Europa e c'è molto Giovanni Marton, assolutamente. Sì, sì, ma queste sono tutte evoluzioni che si sentiranno nei prossimi lavori. bene. Ho capito. Che commenteremo in seguito, anche se daremo delle anticipazioni in questa serata. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che la nostra trasmissione non è solamente da ascoltare, ma è anche da vedere. Forse Giovanni ancora non lo sapeva, ma è inquadrato con le nostre webcam e potete vedere la diretta, seguirla anche via video con diretta rockwave.com. TK. Allora adesso, visto Giovanni che hai la chitarra in mano, già un pezzo, cosa ci fai ascoltare? Suoniamo Non sogno l'estate, il title track. Il title track dell'album praticamente. Sapresti distinguere i tempi e le mode con cui l'uomo si trasforma. cosa ci servirà questa luna? A dare nuovi consigli fragili. Il tempo passerà e con questo la luce cambierà. Ogni cosa ha il suo posto, è un'invenzione. Come se non fosse stata mia. Quest'ultima espressione di dolore. Non sogno l'estate, ormai sono incapace di farmi del male, del male, del male. Non sogno l'estate, ormai sono incapace di farmi del male, del male, del male. Siamo persone perse nelle strade, fra città di polvere e merci in saldo. La notte passerà, lo sai che il tutto non è qua, neanche oltre le esperienze che abbiamo già. La pioggia batte ancora sopra noi, e pensare che si inondi di colore. Non sogno l'estate, ormai sono incapace di farmi del male, del male, del male. Non sogno l'estate, ormai sono incapace di farmi del male, del male, del male. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E abbiamo ascoltato nella versione acustica di Giovanni Marton questa Non sogno l'estate, che è anche il titolo di questo EP che stiamo presentando in questa serata. Pezzo, un testo piuttosto amaro, pungente, non è un testo. L'estate si parla di soavità, non è proprio soavità in questo pezzo, decisamente vai duro nel senso positivo del termine, sì. Scavi. E questo qui è un brano, secondo me, che va visto nell'interezza del lavoro, nel senso che sembra che sia una canzone che tratti di disillusione, che tratti di povertà d'animo per autocommiserarsi. In realtà non è questo lo scopo, nel senso che questa traccia parla di questo, ma in realtà poi ascoltando tutto il resto, completamente il lavoro, si ha come una sorta di catarsi, cioè nel senso che si parte da questo principio di malinconia. È molto malinconico questo pezzo, sì. Più che triste è malinconico, per cui si parte buttandosi giù con ricordi, esperienze, eccetera, e poi invece durante le varie tracce dell'EP si arriva a una conclusione di forza, se vogliamo, e la conclusione non è vabbè mi sono sbagliato prima, devo essere contento, no, la conclusione è ho il diritto di essere contento, di stare bene, pertanto muovo le mie capacità, le mie forze per ottenere quello che secondo me è giusto. Ho capito. C'è una specie di mini concept album, c'è un legame con tutte le sei tracce praticamente. Sì, io ho sempre lavorato in maniera concettuale da questo punto di vista. Le canzoni mie non sono mai così tante legate come può essere il Non al denaro, Non all'amore nel cielo, per dire, non hanno quella struttura narrativa, o come gli Amor Fu, per dire, che hanno quella struttura narrativa. però c'è un perché. Non è una compilation, ecco questo. Questo è chiaro, sì, non è, sono messi là, cioè non è un, non ci sono diversi brani come compilation, come quei pezzi che avevi scritto, no, hanno un filo conduttore. So. Ecco, questo non solo l'estate non l'abbiamo ascoltato in versione acustica, ma come si compone in versione da disco? Senz'altro più energica. Sì, l'ho scelto appunto di farlo in acustico perché l'arrangiamento era un po' troppo energico secondo me per il resto di canzoni che andavamo a proporre. Questo qui è un brano che si appoggia su una drum machine molto anni 90. Anzi, la cassa è proprio techno anni 90, una cassa pesantissima, e con questi beat, queste groove quasi da musica minimale, piccolissime, lanciate a destra e a sinistra, e con un basso elettronico, chitarra chiusa molto ritmica, e nel ritornello invece si apre la batteria acustica con gli appoggi di chitarra crunch. Quanti strumenti hai suonato nel disco? Io suono tutto. Praticamente hai suonato tutto te. Suono tutto, però poi in studio un po' di cose le faccio risuonare, perché suonando tutto è difficile che poi suono bene tutto quanto, per cui... Ti ricordi, però Flavio? Io e Marco Berton possiamo dire che suoniamo tutto. Perfetto. Ti ricordi, Flavio, molti anni fa c'era uno che suonava tutto e aveva lanciato un'etichetta molti anni fa? E che non era Otto e Barnelli. E no? Non era Otto, era Mike Oldfield, anche lui ha cominciato Oldfield, a suonare tutto. Lui era... Veramente non ho parole definendolo, perché veramente era un mostro musicalmente parlando, suonava di tutto, di tutto. Partiva dalle sue basi di batteria e basso per poi fondere un sacco di sonorità. E ha iniziato una strada che molti hanno seguito. Se non sbaglio, Tubular Bells. È stato il primo album, l'album che ha fatto nascere la Virgin Records, sì, praticamente sì. È stato lui. Anche il primo che ha fatto da solo, esatto, mi pare. Però quello è proprio solo. Ecco, assolutamente, comprese le campane tubolari. Sì, ha fatto tutto. Bene, allora... anche Giovanni fa tutto in ogni caso. Anche Giovanni fa tutto, ma sì, ma chi avrà modo di entrare in possesso dell'EP di Giovanni Marton, che ricordo chiamare Non sogno l'estate, e poi vedrà anche all'interno delle note che ci sono nella copertina del disco esattamente quello che Giovanni fa. E allora continuiamo ad ascoltare il disco. Abbiamo scelto un altro pezzo che è la traccia numero 5, che si intitola Lunedì. Allora l'ascoltiamo e poi torniamo in diretta a parlarne. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Questa notte resto solo, non so più scegliere fra il bene e il male. L'ansia mi prende, cosa risponderai alla mia domanda? Come andrà a finire questo amore fra la gente? Come la prenderà chi non credeva in niente? Domani saprai come finirà. Non ha più respiro questo cuore fatto a pezzi, non ha più energie per altri tradimenti. Lunedì saprai come finirà, lunedì vedrò. Un altro sguardo farà tremare non solo il cuore e il destino ci ostacola in ogni cosa, ma non è per sempre. Amore fra la gente, come me la prenderà chi non credeva in niente. Domani saprai come finirà. Non ha più respiro questo cuore fatto a pezzi. Non ha più energie per altri tradimenti. Lunedì saprai come finirà. Lunedì vedrò. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci ancora qua, buona serata a tutti da parte di Flavio Bilato, Maurizio Calzavara. In questa serata di martedì 12 aprile abbiamo con noi Giovanni Marton. Insieme a lui stiamo conoscendo quella sua nuova produzione che si intitola Non sogno l'estate. È un EP e ce ne sta parlando, e abbiamo ascoltato questo pezzo che si intitola Lunedì. Sì, un pezzo particolare, no? Bello, acusticamente ben fatto, musicalmente costruito in determinati modi, fatto tutto da Giovanni, dobbiamo sottolineare questo. Tutte le diverse, hai qualche altra? Dimmi. Beh, l'arrangiamento, sì, poi questo pezzo, questo è stato suonato da però l'arrangiamento è tua, l'idea è tua, sì, esatto. Certo. Poi è un finale particolare che io che ho una certa età, anche te Flavio che sì, hai una certa età, ti ricordi molti anni fa c'erano gli Afro-Rai Child che avevano ripreso un pezzo di questo Abate francese, hanno campionato un momento, Giovanni gli ha anche lui leggermente campionato un secondo questo motivetto e poi l'ha sviluppato a suo modo, chiaramente. Sì, perché in effetti ascoltandolo proprio in sottofondo, facendoci proprio caso, ti viene in mente che c'è un qualcosa di legato ma molto molto in là nel tempo. Sì. Però è piacevole, ci sta bene all'interno. Ma Giovanni, dà una spiegazione, perché hai citato Pachelbel praticamente, Giovanni? Ma io ho voluto mettere Pachelbel nella coda del disco, così come De André alla fine di Un malato di cuore fece La primavera di Vivaldi. E visto che tra l'altro in tonalità ci stava bene anche col mio arrangiamento originale, ho pensato di chiudere questo pezzo in maniera diversa, che poi tra l'altro io poi riascoltando mi sono dato pure un'altra spiegazione inconscia del perché l'ho fatto, nel senso che tutta la canzone dice come andrà a finire questo amore fra la gente, così, e Pachelbel è anche una marcia nuziale, sì, perché c'è questo pezzo in cui tutto quanto la canzone si sviluppa dicendo chissà cosa faremo, gli età così, e finisce con la marcia nuziale, per cui può anche avere questa interpretazione. Adesso suoniamo la traccia numero 4. Sì, la traccia numero 4 che è Funzioni Vitali. Funzioni Vitali, visto che è un pezzo molto acustico già di per sé, lo suoniamo in acustica. Benissimo, allora ascoltiamo queste Funzioni Vitali, a cantarla è Giovanni Marton, che si è portato per l'occasione la chitarra, che adesso ascoltiamo. Funzioni Sai che ormai sto annullando le mie funzioni vitali. Per adesso sto evitando ogni altra distrazione. Decisione maturata in lunghi giorni di silenzio, sempre appeso ad un pensiero, quasi fosse un estraneamento. Perché non mi attrae più nulla, perché nulla è così vero. Sono solo i potenti che contorcono le mie idee. Tanto c'è la televisione, basta andare alla televisione. Senza nulla da dire, senza nulla da far capire. Ma tanto c'è la televisione, basta andare lì, cantare una canzone. È una questione di voce, una questione di interpretazione. E non importa chi sia l'autore e nemmeno il compositore. Se sai scrivere o suonare non ti deve interessare. E così siamo tutti artisti, siamo tutti musicisti. Sarà vero, ma a me non sembra che sia arte, ma piuttosto il karaoke in un bar di provincia. Così annienterò me stesso per dimostrarti quanto è vero. Oltre tutte le tensioni e le barriere di questo impero, per la musica sto annullando le mie funzioni vitali. Per adesso sto evitando ogni altra distrazione. Nai, nai. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua ancora in diretta, abbiamo ascoltato un altro pezzo tratto dall'EP Non sogno l'estate, la cantata dal vivo con la sua chitarra Giovanni Marton. Allora, abbiamo ascoltato il pezzo Funzioni vitali. Sì. Che è un pezzo che io e il nostro direttore artistico, che salutiamo, Alberto Prisco, abbiamo citato, abbiamo voluto per un mese consecutivo in rotazione qui in radio. Quindi, la scoperta adesso, sì. È un pezzo molto bello, è una stilettata non da poco, Flavio, alla televisione. No, beh, assolutamente, anche perché non solo alla televisione ma anche agli artisti. Agli artisti, che esatto. Purtroppo devono fare i conti sempre con le major, sempre con queste spinte magari non sempre condivise dagli artisti, che però ci stanno, magari non è lo stile che l'artista vorrebbe, ma deve comunque sottostare a quella che è la legge dello spettacolo. Allora, io comincio dicendo che mi fa molto piacere che sia stato molto programmato questo pezzo. A me piaceva molto, abbiamo deciso io e Alberto di programmarlo perché lo ritenevamo il pezzo, secondo noi, il più significativo del disco. Ecco, io l'ho sentito così, anche musicalmente, mi è entrato immediatamente, abbiamo sì, subito scelto. È un pezzo molto cantautorale questo, con un ritornello, è dritto, così, chitarra. Allora, l'argomento... di cui parla il brano. Beh, allora, io diciamo innanzitutto con questo pezzo non ho nulla di personale con nessuno, però è la mia opinione, nel senso che io, cioè questo è il mio lavoro praticamente, perché io proprio mi occupo di musica, è quello che faccio, che voglio fare. E ovviamente non mi interrogo solo sulle questioni artistiche, ma mi interrogo anche sulle questioni professionali, ovviamente, sulle varie scelte che bisogna compiere, eccetera. Io credo che i talent show sia un'idiozia. Lo pensiamo anche noi. Anche noi, quindi, perché per vari motivi. Sì. Se volete li elenchiamo. Vabbè, ci fa piacere. Allora, se ce li hai in mente tutti, anzi. Vari motivi. Allora, innanzitutto, come si può pensare di creare una pop star se tu la mostri in televisione quando è una persona normale? La sacralizzazione del grande artista non è uno dei punti fondamentali. Vi ricordate la difficoltà che c'è stata nel trovare i vecchi video di Lady Gaga di quando suonava nei... Perché non hanno voluto... Perché non va bene, non sta bene, perché poi uno si costruisce una sua estetica complessa e poi soprattutto questo innesca un circolo vizioso che fa dire... E la gente che vede queste persone in televisione dicono: vabbè, quello lì è come me, guarda, cosa, che differenza c'è fra me e quel ragazzo lì che è normalissimo? Allora posso andarci anch'io, no? E questo qui è il primo punto che non funziona. Altro punto, pensare che uno che sa cantare è un artista. Non so quante siano le milioni di persone che cantano benissimo, che cantano molto meglio di me, di sicuro. Però non sono artisti. Non sono artisti, non fanno musica. È chiaro che ci sono degli esempi di persone che cantano e sono degli artisti, perché poi dipende anche dal carisma della persona, ce ne sono. Però è un'esigua minoranza. Una persona che sa cantare, che canta bene, al massimo posso definirlo un atleta, perché sa usare bene un muscolo del proprio corpo. Per essere un artista ci vuole, però. Ci vuole, per essere un artista ci vuole di più. E poi, secondo me, altro errore è il fatto che... bisogna avere delle basi, secondo me, e non aver fatto niente ed essere scaraventati così alla balia delle major, alle televisioni, così poi crea anche delle idee sbagliate, nel senso che tanta gente sparisce, secondo me, perché poi continua a rimanere a casa a girarsi i pollici aspettando che gli telefoni, no? Vero, ho capito cosa vuoi dire, sì. Mentre adesso bisogna, per fare musica, l'unica maniera per fare musica attivamente è saper far tutto adesso. Non ci sono più soldi, non c'è niente, non puoi aspettare che ci sia uno che ti scriva le canzoni, quello che ti suona, o sai cantare, scrivere, suonare, arrangiarti, produrti. Allora puoi pensare di proporre qualcosa. Cioè, tu ti proponi come uno che sa cantare, molto limitante, quindi c'è un'illusione della televisione che non rispecchia la società reale. Ho capito, chiaro. Certo, quindi diciamo è un po' colpa delle major, se vogliamo, perché poi stanno facendo questa politica, diciamo, anche televisiva, perché forse non sanno più dove sbattere la testa alla fine. E le major fanno così perché non devono spendere soldi di promozione. Si accontentano che poi vendano quelle 30.000 copie, ben che vada. 30.000 copie è un flop assurdo. Sì. Cioè, io non voglio far nomi, ma uno che sta 5 mesi in televisione, che poi fa pure Sanremo, magari vince. Sì. E vende 30.000 copie. Vende 30.000 copie più o meno. Non so, cioè, se... io rimango perplesso, perché chi, parlavamo prima anche noi, che chi invece continua a fare musica bene, le copie continua a venderle. Sì, continua a venderle. E però loro dicono che vendono poco per colpa di internet. No, vendono poco perché la musica non ha più la qualità che aveva una volta. Se la musica riprendesse ad avere la qualità, e dovrebbero prendere esempio dai lavori che stanno facendo le etichette indipendenti italiane, che è da inchinarsi al lavoro che stanno facendo certe etichette indipendenti che non ci guadagnano e si sbattono solamente per ci troviamo in paradossi in cui c'è gente che stampa su indipendenti e ha più vendite, più visibilità di artisti, sì, nelle major. Certo, sì, il problema è tutto artistico, c'è poco da fare, non è internet, non è mercato, il problema è tutto artistico. I dischi si vendono, si possono vendere tranquillamente se i dischi sono belli. Ah, questo è vero, sì, sono d'accordo con te, ben costruiti, ben fatti. Allora, per ricordare ai nostri ascoltatori come fanno per entrare in possesso di questo EP, Giovanni, come possono fare? Ecco, qui apriamo una pagina dolosa, nel senso che... io sono a malincuore tormentato da persone da Torino, da Roma, che mi scrivono: ma sono andato alla Feltrinelli, non l'ho trovato, aspetta. Io domani devo rispondere: prenditela con l'editore. Perché il disco è disponibile in digitale su iTunes e su tutti i vari store digitali, però non sono ancora riuscito a entrare nella casta di quelli che possono avere il CD distribuito, diciamo. Per cui abbiamo pubblicato un EP e non un album, proprio per questo, perché in digitale non pubblico un album. Certo. Ho fatto un EP che è disponibile in digitale, per cui su iTunes, Dada.it anche c'è adesso, che va molto. Qui consiglio di andare lì, insomma, per chi lo volesse. Vabbè, allora abbiamo capito che ci sono ancora difficoltà nella distribuzione, non solamente nel disco di Giovanni Mardoma, un po' una cosa generale, l'abbiamo capito anche da altri ospiti che sono venuti ai nostri studi, sempre per la difficoltà della distribuzione, qualcuno deve fare anche la distribuzione fai da te, si può dire, no? Quindi contattare un sito o una tua pagina personale e avere maggiori indicazioni di come entrare in possesso della tua musica. Sì, vi dico, quella cosa lì, nel senso di poter vendere i dischi via posta, non l'ho fatta perché abbiamo deciso di produrre appunto una copia di CD solamente per la fascia promozionale. Abbiamo tenuto semplicemente così, uscito in digitale, perché è un EP, l'abbiamo giustificato così, e l'album a cui stiamo lavorando invece sarà distribuito. Normalmente tu aspetti quello, oltre a quello, adesso hai prodotto questi sei pezzi. Sì, però. Perché è diventata una questione personale, certo, ma vi posso assicurare che, che il CD del mio album sarà distribuito, forse è l'ultima cosa che faccio. Benissimo, allora okay. Torniamo a parlare di questo EP, presentando anche un brano che va forse un po' fuori da quelle che sono state le calibrature prese dai primi cinque pezzi. Mm. Stiamo parlando di L'Intormento, che poi l'hai anche, come dire, tradotto tra parentesi, dicendo che L'Intormento significa lento tormento. Questa è una citazione dei Blue Vertigo, perché quelli che facevano i titoli assurdi fondendo le parole erano proprio loro. Bene, allora l'ascoltiamo e poi torniamo a commentarlo insieme. Blu Radio Sera. sentirsi unici. Solo noi, solo io. E poi è come spogliarsi, sapendo già cosa troverò sotto la pelle. Siamo già soli, siamo qui soli, perché Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. È davvero particolare questo lentormento che inizia e finisce con una macchina da scrivere. E tendi a precisare che c'è la Olivetti Lexicon 80 a farti compagnia, Giovanni. Sì, ma quelle sono le specifiche, ovviamente, che nel disco bisogna scrivere. No, è un brano che è un notturno. È un notturno, per cui l'immagine dell'artista che lavora al computer per fare musica non è molto romantica. L'immagine dello scrittore che lavora sulla macchina da scrivere invece lo è. È molto romantico, sì, è vero, hai ragione. Per cui il senso è un po' quello. Da sottolineare, no, cari ascoltatori, che Giovanni il pezzo l'ha scritto totalmente lui, l'ha scritto a casa e poi l'ha portato allo studio per metterlo a posto. Questo è stato l'unico brano, appunto, del disco che aveva bisogno, appunto, di una sua atmosfera molto intima, per cui questo disco qui me lo sono fatto tutto nel mio studio e poi l'ho portato solo a masterizzare negli studi dell'etichetta, ecco. Certo, ricordiamo che è una specie di mini suite per dura 6 minuti e 45, Flavio. Sì, 6 minuti e 45, confermo. Quindi? Sì, ed è veramente piacevole. Poi è anche necessario ricordare ancora una volta che Giovanni qui suona tutto. Sì, esattamente, suona assolutamente tutto. È una cosa macchina molto, molto compresa. Sì, ma è bella, cioè è una cosa interessante. La cosa più bella è quando faccio live questo pezzo qua. E come lo fai? È perché porto la macchina da scrivere. Ah, perfetto. Molto bene. Che non ha bisogno di amplificazioni particolari, fa già rumore da sé, soprattutto. No, ma la microfono è lo stesso, non si sa mai. che non si possa sentire al di là. Ringraziamo un secondo la Chiara che guida le telecamere come sempre stasera. Sì, sì. Oltre a essere il nostro fotografo ufficiale di tutti i live. Ne approfittiamo anche per salutare gli ascoltatori che ci stanno anche vedendo via webcam. E ricordiamo ancora una volta quello che è l'indirizzo internet per vedere le webcam, diretta rockwave.tk. E salutiamo anche chi ci sta ascoltando in streaming audio attraverso il nostro sito www.bluradioveneto.it. Un giornalista ha scritto che questa era una Dream Pop Suite. È una bella soddisfazione, Dream Pop Suite. Sì. È bello, non è mica è negativo. No, sì, sì, è bello. E questo qui è un brano che poi, secondo me, io poi ovviamente noto molte piccolezze ovviamente da arrangiatore. E nella coda finale, strumentale, ci sono dei piccoli suonetti che vanno sentiti in cuffia. Cioè sembra un drittone, sembra molto ripetitiva, mentre in realtà crea delle atmosfere specifiche. C'è quella diamonica che sembra quasi... Che cos'è uno strumento la diamonica? Sì, è come un'armonica, quella collegata con un tubo al fiato, no? Che poi è quel suono un po' anche d'organetto, se vogliamo. E mi è piaciuto molto, ad esempio, fare un esempio delle atmosfere che crea. Quando entra prepotentemente la diamonica in quella parte di finale, subito dopo, dall'altra parte, nell'altro canale, si sente questo sottofondo di temporale. Bello. Di pioggia. E lì perché? Perché lì ho avuto un'immagine, cioè nel sentire quel suono di diamonica che entrava, sono immaginato subito un vicolo parigino dove, cominciando a piovere, ti devi rinchiudere in un caffè. E lì, fatalità, entra anche quel pianoforte chiuso che dà proprio quella sonorità un po' da caffè. Ho capito. Bene, è un piccolo viaggio. Sì. Bene, quindi un ulteriore invito di entrare in possesso di questo EP anche per ascoltare le sonorità che si nascondono dietro altre sonorità. Bene, ancora Non sogno l'estate, ricordiamolo, questo ultimo EP di Giovanni Martò, mentre aspettiamo anche quello che sarà il CD di prossima uscita, di cui ancora non sappiamo molto, so che è segretissimo in questo caso, però vabbè, ormai sappiamo che ci stai lavorando sopra. E allora Maurizio, visto che sono quasi le 22, noi cerchiamo di capire anche quelle che sono, diciamo, gli artisti di riferimento oppure le varie sonorità musicali di cui tu ti sei, come dire, nutrito per fare tuo poi il mondo musicale. Allora, dovendo andare in un'isola deserta, avendo a disposizione solamente un posto per tenere 5 CD, quali CD sceglieresti? Avrei bisogno di dischi che mi deprimono e quelli che mi tirano su. E quindi? Quali sono? Definiamo un deprimente. Allora, mi devo portare Tutti morimmo a stento di Fabrizio De André in modo da seppellirmi. Evviva! Uno. Questo nelle brutte giornate, magari di notte, così. Ma, ma perché ti piace o perché... Ma quando sono particolarmente emozionato. Ah. Sì, sì, quando ho quel tipo di emozione lì. Poi quando sono in un'isola deserta, magari prendo due noci di coca, voglio sentirmi un po' glamour, mi prendo un disco di Blue Vertigo, facciamo Pop Tools. Ecco, perfetto. In contrapposizione, ci sta bene. Poi, quindi siamo a due. A due, sì. Sì. Siamo a due. Importante anche sarebbe avere qualcosa che possa poi essere, diciamo, sia concorde con dei momenti di felicità, per cui una cosa che mi fa stare molto bene sono i dischi di Matt Costa. Matt Costa, che non tutti conoscono, e... stampa sull'etichetta di Jack Johnson. Ma che tipo di musica, di sonorità produce? Diciamo un suono acustico, però quel pop californiano, diciamo. Ho capito. Molto schitarrato, percussione. Quindi colorato californiano, possiamo dire questo. Colorato, sì. E mi piace molto perché sembra totalmente diverso dalla musica elettronica, mentre in realtà la concretezza del suono, il filo conduttore. Nel senso che suona tanti strumenti acustici, ma sono suoni pazzeschi, veri, concreti. Questo questa è per la felicità. Poi per la rabbia mi porto un disco di Placebo. Ah, bene. Indubbiamente. Perché sono anche... portano della rabbia musicale, chiaramente, in Placebo. Sono potenti in alcuni momenti, decisamente. E poi per quando voglio essere fiero di me stesso, porto una copia del mio disco. Ah, bene. Fantastico. Siamo a 5. Perfetto. Siamo a 5. Abbiamo quadrato il cerchio assolutamente. Bene, ci fa piacere anche perché ci ha elencato anche gli stati d'animo, quelli veri, quelli di tutti, abbinato a un disco. Bene, allora ascoltiamo ancora qualcosa con la tua chitarra, Giovanni. Sì, possiamo suonare adesso il singolo, quello che è stato il singolo dell'EP, Limiti privati accantonati. Perfetto. Questa è una nuova espressione, un'altra rivoluzione. Ho l'illusione che siamo tutti belli dotti e acculturati. Noi siamo i figli della televisione, il reality, una nuova professione. E fra discorsi poco acuti che si fanno in TV, nessuno chiede il mio parere qual è, perché poi parla come se non ti importasse di me. La libertà mia, mi spieghi qual è se tu parli per me. Siamo amanti della cultura pop, abbiamo tutti una vita senza stop. Pretendiamo rispetto da chi ci crede un oggetto, per questi limiti privati accantonati. Parla come se non ti importasse di me. La libertà mia, mi spieghi qual è se tu parli per me. Per ogni nuovo sguardo nascerà forse un nuovo affare. Per lo più utili, distanti dal mio cuore da usare. Perché poi parla come se non ti importasse di me. La libertà mia, mi spieghi qual è se tu parli per me. Per ogni nuovo sguardo nascerà forse un nuovo affare. Per lo più utili, distanti dal mio cuore da usare. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E abbiamo ascoltato questo Limiti privati accantonati, a cantarla Giovanni Marton con la sua chitarra in questa serata all'interno di Blu Radio Veneto. E tra altre cose, questa canzone che adesso abbiamo ascoltato è anche disponibile su YouTube. Perché c'è un video proprio con te che salti e che canti con la tua chitarra elettrica, in questo caso con delle atmosfere davvero particolari in sottofondo, quindi delle nuvole incandescenti, possiamo sì, dire questo così. Qui è un disco che nell'arrangiamento delle sonorità molto retro. Nel senso che c'è un arpeggiatore molto plastico, dei riff di chitarra proprio alla New Order. Bello, ah, New Order, sì, ricordiamo. Grande gruppo. E per cui abbiamo fatto fare un videoclip che, perché adesso quando si fanno i videoclip in digitale sembrano veri, nel senso che uno fa un videoclip in digitale, no, su fondo verde così, e poi in realtà sembra che sia davvero nell'ambientazione. Noi invece abbiamo giocato di luci, di qualità, di fare dei passaggi di colori in modo che potesse un po' avere quell'effetto di sovrapposizione, nel senso che il soggetto, che sono gli altri musicisti, non siamo così bene fusi con il contesto. E questo lo fa sembrare un po' uno di quei videoclip sì. anni 90. Quindi non c'è quel chroma key completo, diciamo. Sì, beh, il chroma key sì, è stato tolto, però il gioco di luci, di colori e anche di prospettiva, se vogliamo, crea un po' quell'effetto che fa dire: ah, però si vede che è una cosa elettronica, non è uno spazio reale. Poi anche le inquadrature, diciamo, dicono, cioè definiscono quello che tu hai appena citato. Sì, inquadrature appunto semplici, sì, a parte qualche divagazione finale, però molto frontali. In questo pezzo ha collaborato con te Pedro Fiammingo e anche alla batteria Fabio Gatti, mi pare. Sì, anche su Lunedì. Anche su Lunedì, esattamente, quindi due grandi professionisti. Sì, beh, Fabio è un ragazzo che ha pochi anni più di me, suona con garbo. Ha suonato con tanti altri praticamente. Sì, suona molto bene. Tanto che appena registrato non capivamo se era già quantizzato la registrazione. Ho capito. Sì. E poi vabbè, Pedro. Pedro lo conosciamo tutti, Fiammingo è un chitarrista molto interessante, bravo, ha suonato con Morgan, ha suonato con i Soerba, ha suonato parecchio. Sì. Ha fatto tanta strada musicalmente parlando. Ha anche buttato giù delle linee di basso su altre canzoni, così sì. Quindi tu hai dato l'input, gli arrangi, però loro ti hanno dato una mano in determinati pezzi. Sì, beh, in questo brano, ad esempio, io ho fatto le chitarre acustiche e ho preparato l'arrangiamento come doveva essere, i sintetizzatori, eccetera. Poi ovviamente l'idea di fare quel riff fatto così nell'inciso gli è venuto fuori a Pedro. Certo. Chiaramente, beh, è uscito bene, decisamente. È uscito bene, decisamente, molto bene, molto bene. Bene, allora stiamo imparando sempre cose nuove relativamente alla musica che ci sta proponendo Giovanni Martone. Ricordiamo ancora una volta il titolo del suo nuovo EP, mentre aspettiamo quel lavoro di cui ancora non si sa nulla, però lo sapremo spesso, Giovanni, ti staremo sotto. Non sogno l'estate, si intitola questo EP, abbiamo ascoltato già molte tracce, però in questa serata, Giovanni, tu non volevi farci ascoltare solo le tracce di questo EP, c'è qualcos'altro? Ma ho preparato un paio di canzoni, ho preparato un brano di un artista che inizialmente non mi faceva tanto entusiasmare perché fa cose un po' diverse, però ha scritto un brano che tra l'altro Rockit ha premiato come numero uno del 2010, che è un capolavoro poetico, e sto parlando delle luci della centrale elettrica. Ah, chiaro. E il brano è Quando tornerai dall'estero. Certo. Dura pure poco, sì, però... Beh, anche se durasse di più non... va bene, dice lo stesso. Dice tutto. Certo. Bene. Lo sentiamo adesso, allora. Le morti bianche, le cravatte blu, il tuo fuoco amico, l'eyeliner per andare in guerra, nell'estrema sinistra della galassia dove per l'umidità del garage la nostra anima che ansimava era per un'occupazione temporanea, era una gara di resistenza, partigiano portami via. Saremo come dei dirigibili nei tuoi temporali inconsolabili, dammi 50 centesimi, dammi 50 centesimi. Non mi ero accorto che i tuoi orecchini per i riflessi lanciavano dei piccoli lampi. Non avevo capito la direzione dei tuoi sguardi. Che siamo donne, oltre il burka e le gonne. Metteremo dei letti dappertutto, dei materassi sporchi volanti. Si sparse ovunque l'odore dei disinfettanti. Saremo come gli eroni che abitano vicino al campo nomadi. Andremo ancora a letto vestiti, come i tempi dei primi freddi e degli elenchi telefonici sui reni. Delle scintille che facevi ti diranno che sei poco produttiva. Proprio adesso che l'America è vicina, è come andare sulla luna in Fiat Uno, è come lavorare in Cina. Ma sei sempre il sole che scende in un ufficio pubblico per appenderci un altro crocefisso, e di sera nelle zone artigianali per tradirsi, per brillare come le mine e le stelle polari. E sempre come un amuleto tengo i tuoi occhi nella tasca interna del giubbotto. E tu tornerai dall'estero, forse tornerai dall'estero. E tu tornerai dall'estero, forse tornerai dall'estero. Adesso che quando ci parliamo i nostri aliti fanno delle nuvole che fanno piovere. Adesso che quando ci parliamo i nostri aliti fanno delle nuvole che fanno piovere. Non mi ero accorto che i tuoi orecchini per i riflessi lanciavano dei piccoli lampi. Non avevo capito la direzione dei tuoi sguardi. Che siamo donne, oltre il burka e le gonne. Blu Radio Veneto, bella come non l'hai mai sentito. Blu Radio, Blu Radio, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccola qua, la prima volta che l'ascolto questa canzone in assoluto, però mi ha... È un grande pezzo questo, sì. La luce di centrale elettrica, questo è praticamente il gruppo, cioè il gruppo è un solista emergente del 2010, giudicato il migliore album del 2010 emergente. Mm. Vasco Brondi è un grande musicista, eh. Cosa dici, Giovanni? Sì, vi dico, in realtà all'inizio non ti piaceva, non mi ha preso tanto, però poi... E ancora adesso non è che sono uno che dico mi ascolto l'album, così. Però questa canzone, sì, ogni volta che l'ascolto mi dà emozioni diverse, per cui... Il suo primo disco ha musicalmente, la critica lo ha osannato. Il secondo un po'. Abbiamo lo stesso manager, credo. Ah, è perfetto, sì, mi pare di sì. Lo ha osannato la critica il primo disco. Il secondo un po' meno, il secondo un po' diverso. Ma il primo disco è stato. Ha preso un sacco di riconoscimenti assoluti. Vasco Brondi, musicista emergente. Disco più importante indie italiano del 2010. Bene, vogliamo dare anche qualche indirizzo internet per conoscere ancora qualcosa di te, Giovanni? Sì, allora su Facebook c'è una pagina aggiornata scrivendo Giovanni McDonald, si trova. Oppure il MySpace, myspace.com/GiovanniMcDonald. Sì, poi vedevo che eri presente anche su Rocket. Sì, beh, su Rocket, sì, su Rocket si possono sentire tutti i brani, vedere il video e leggere una recensione di 5 righe che mi ha fatto Rocket. Era sarcastico. Però in ogni caso ci sono altre recensioni che io ho letto decisamente molto positive tutte, sì, Giovanni. Sì, dobbiamo tenere al di là delle 5 ride ci sono altre recensioni, sì. Chiaramente. Bene, visto che mancano circa 17 minuti, poco meno, della trasmissione con Giovanni Martone, direi di approfittarne della sua presenza con tanto di strumento per ascoltare ancora qualcos'altro, visto che ti ho visto maneggiare un po' di foglietti, vuol dire che c'è una scaletta. Ma allora io Per chiudere avevo portato un pezzone di Guccini. Così ah, un pezzone, un bel pezzo. Che pezzo è di Guccini? Canzone quasi da moga. Ah, bella, bella, bella. Bene, allora l'ascoltiamo. Anche però se penso non... che se la sì. faccio tutta, poi mi devono amputare il braccio. Perché? Ah, perché è pesante, lo so. Ma abbiamo un quarto d'ora, Giovanni, di tempo, quindi io spero che il braccio non venga amputato, assolutamente, però insomma... Anche perché il pronto soccorso è un po' lontano. Sì, è un po' distante da qua. Ma ci proviamo. Sì. Dai, ci proviamo, dai. Non starò più a cercare parole che non trovo per dirti cose vecchie con il vestito nuovo, per raccontarti il vuoto che al solito ho di dentro e partorire il topo vivendo sui ricordi, giocando coi miei giorni col tempo. O forse vuoi che dica che ho i capelli più corti, o che per le mie navi son quasi chiusi i porti. Io parlo sempre tanto, ma non ho ancora fedi. Non voglio menar vanto di me o della mia vita, costruita come dita dei piedi. Queste cose le sai, perché siamo tutti uguali e moriamo ogni giorno dei medesimi mali, perché siamo tutti soli ed è nostro destino tentare goffi voli d'azione o di parola, volando come vola il tacchino. Non posso farci niente e tu puoi fare meno. Sono vecchio d'orgoglio, mi commuove il tuo seno e di questa parola io quasi mi vergogno. Ma c'è una vita sola, non ne sprechiamo niente di tributi alla gente o al sogno. Tutto questo lo sai e sai dove comincia la grazia o il tedio a morte del vivere in provincia, perché siamo tutti uguali, siamo cattivi e buoni e abbiamo gli stessi mali, siamo vigliacchi e fieri, falsi, sinceri, coglioni. D'altra parte lo vedi, scrivo ancora canzoni e pago la mia casa, pago le mie illusioni. Fingo d'aver capito che vivere è incontrarsi, aver sonno, appetito, far dei figli, mangiare, bere, leggere, amare, grattarsi. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Era il 1976 quando usciva l'album Via Paolo Fabbri numero 43. All'interno di questo album c'era proprio la canzone Quasi d'amore, proposta in questa serata da Giovanni Marton. Che Via Paolo Fabbri 43 fu un grandissimo successo di Francesco Guccini ed era il suo indirizzo praticamente. Sì, era il suo indirizzo. Poi, per cambiare. Poi ci ha provato anche Luca Barbarossa, sì, e anche altri a indicare il loro indirizzo di ubicazione geografica, forse per aspettare le fans, però... Diciamo che forse il primo a indicare la propria abitazione è stato lui. Come mai, Giovanni, hai scelto? Io sono un vecchio cuciniano che ho una certa età, Giovanni, quindi. Come mai sei hai nato scelto? Ascoltando L'Avvelenata, mi ricordo. Io ho sentito anche prima, due anni dopo, sì, Primavera di Praga, sì, eccetera. Sì. Quindi all'inizio di carriera tu. Come mai ami un personaggio così importante come Guccini? Beh, ti dico, io ho un profondo retaggio culturale che viene dal cantautorato. anche se poi non lo applico tanto, comunque ho fatto mio parte di questa storia. E questo qui è un brano che secondo me, fra, almeno come lo sento io, che fra i vari temi di cui tratta, sono comunque riflessioni annoiate. Sì, giusto. Capito. Sono riflessioni annoiate, il tedio a morte del vivere in provincia. E siccome sapevo che avremmo parlato anche di questo argomento, qualcosa che abbiamo fatto, ho deciso di collegarmi con questo brano che diciamo, dà una forte spiegazione. Esattamente. Sì, è molto come in semitrasparenza, nel senso che capisci un messaggio e poi sottofondo capisci tutto un clima, un'atmosfera. E lui ha quelle caratteristiche, là, Francesco Guccini, di fare una poetica meravigliosa. È più un dipinto che esattamente. E poi lui vive in provincia, è vissuto per molto tempo sull'Appennino Modenese, mi pare viva ancora sull'Appennino Modenese, quindi non vive in città. Bologna sì, è vissuto a Bologna, però ama vivere in provincia sull'Appennino Modenese, quindi è già significativo questo. Poi Guccini, c'è poco da fare. Certo, come dicevo. Certo, come esatto. Lui, Io ricordo molti anni fa, quando veniva a fare i concerti a Padova, ha fatto più di uno, e una volta usava, adesso usa l'acqua minerale, una volta aveva il Sangiovese. Aveva il Sangiovese, certo. non l'acqua minerale. Doc. Esatto, Sangiovese Doc. Esatto. In quel periodo ancora forse l'obbligo di mettere il Doc, non c'era. Bene, abbiamo ancora un po' di minuti da spendere, direi che potremmo far ascoltare anche un altro pezzo da disco che prima abbiamo ascoltato in versione acustica. Sì, poi Giovanni però vuoi farci anche una sorpresa, suonare un altro pezzo dopo. Benissimo, allora ascoltiamo un pezzo da disco, prendiamo un po' di fiato, esatto. E poi Giovanni ci farà ascoltare un'altra cosa per salutarci. Esattamente. Allora io direi che potremmo andare con quella che è la traccia numero uno del disco Non sogno l'estate, che prima abbiamo ascoltato in versione acustica, ma vediamo come effettivamente rende da disco. Certo. Blu Radio Sera. Non sogno l'estate, Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E ce la siamo ascoltati anche in versione da EP, questo Non sogno l'estate, che prima aveva dato già una bella carica in versione acustica, e abbiamo capito invece l'effetto sonoro all'interno di questo disco. È la prima traccia, proprio la presentazione, diciamo, di quella che è la musica di Giovanni Martoni. Giovanni, per caso fai qualche data per dare sfoggio a questo tuo EP, oppure aspetti il disco, quello che uscirà? Abbiamo suonato dal vivo quando c'è stata la Margherita Primavera di Rocchito. E poi adesso stiamo organizzando prossimamente un altro evento, di cui però non so darti dati adesso, purtroppo. Ho capito. E questo live che farete, che formazione lo farete sul palco praticamente? Beh, stasera sei chitarra e voce, chiaramente. Beh, penso che sarà comunque una formazione acustica, per cui il disco è un unplugged. Ma chi da scrivere comprese? Sì, beh, certo, sì. Essenziale. Bene, allora Maurizio, riepilogando l'appuntamento per mercoledì prossimo. Cioè per domani. Per domani, scusa, sì. È tutto una sorpresa. Ah. Sentirete la sorpresa dalle ore 22, giovedì, è sicura, ci sono i Viola Polvere direttamente da Roma alle ore 21 con Agostino. Beh, diciamo che perlomeno un gruppo veronese. Sì, un po' darsi che sia un gruppo veronese. Facciamo il 99%. Non possiamo dire altro. Non possiamo dire altro, perché gli accordi sono stati stabiliti, ma non totalmente. Quindi domani stabiliremo tutto. Benissimo. Comunque sul sito di bluradioveneto.it c'è scritto tutto. Bene, ok. Ecco. Bene, allora noi ringraziamo Giovanni Marton per essere stato con noi in questa serata, per averci fatto ascoltare la sua musica, ha presentato questo lavoro molto molto bello, molto piacevole nell'ascolto, Non sogno l'estate, si intitola ancora, abbiamo ripetuto più volte nel corso della trasmissione, e aspettando il nuovo lavoro gli diciamo grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Ricordati ancora il nostro indirizzo per, per il tuo prossimo lavoro, sarai sicuramente il benvenuto. E allora noi, Maurizio, salutiamo i nostri ascoltatori e lasciamo Giovanni qui da solo con la sua chitarra. Certamente. Che ci fa ascoltare ancora un ultimo pezzo. Bene. Suono ancora grazie. Suono un brano di un amico che è stato ospite anche qui, Lale Battista. Certo. Bene. Allora noi salutiamo. Grazie a tutti da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. Bene. Buona serata. Da dietro l'angolo spunta una figura, un uomo si nasconde lasciando qualche traccia, tana per me che sono trasparente, ma ho l'ombra più decisa e gigante che c'è. Mi sembra di impazzire, ma è come se intuissi un varco per entrare nel tunnel della luce. Si tratta di capire che cosa ci separa dall'infinito. Dovremmo cominciare col cercare delle ombre, che non vuol dire credere che niente qui sia vero, ma porre i propri occhi sulla cima più alta di questa megalopoli. Città delle bugie che portano ad avere timore di sé. Sai che gli egizi credevano che ognuno di noi è una stella, e che la vita è un percorso che serve a tornare in cielo. È come una caduta, è il piano su cui stavi all'infinito. Si tratta di capire che cosa ci separa dall'infinito. Dovremmo continuare col cercare delle ombre. Nella nostra inquietudine ci sono gioie spente e cose che ci fermano, che impongono alla testa di stare china a terra. Dovremmo continuare col cercare delle ombre. Nella nostra inquietudine ci sono gioie spente e cose che ci fermano, che impongono alla testa di stare china a terra. Fra tutte le bugie che portano ad avere timore di sé. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera.